meglio, quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera cari radioascoltatori, ce l'abbiamo fatta dopo una puntata fantasma di Cristina e Barbara. Ci siamo veramente noi dal vivo questa volta invece con Donatella. Buonasera a tutti. E il sottoscritto Roland alla regia, se riusciamo a far funzionare tutto. Eh sì, diciamo che questo inizio un po' tumultuoso ci voleva per segnare il nostro ritorno ai colori dell'anima dopo una lunga estate, perché è vero che l'ultima volta che siamo stati qui ai colori dell'anima era all'inizio dell'estate. Ora siamo, ahimè, già in pieno autunno, fuori c'è un tempo che lascia abbastanza a desiderare, ma questa sera ci rifugeremo nei locali della Maison de Culture qui a Saint-Gilles per riscaldarci ascoltando le bellissime storie di un caro amico che questa sera ci porterà con lui lungo attraverso un lunghissimo viaggio. E ci puoi raccontare qualcosa di più già, Donatella? Anticiparci qualcosina? Mi chiedi già troppo. Okay. Diciamo che ti posso anticipare che il colore di questa puntata è rosso-giallo. Rosso ti viene giallo. In mente qualcosa, tu che sei abbastanza dentro il calcio? Pensavo subito alla Roma, ma so no. Già e vi posso dirlo, cari ascoltatori, non parleremo della Roma. No, parleremo di qualcosa a te più caro, visto che credo che questo colore abbia battuto l'Olanda in maniera miserabile ai mondiali di qualche anno fa. Ok, allora credo che è proprio tempo di lanciare il prossimo brano e poi torniamo da voi con il nostro caro ospite Croce, che vi introduciamo fra poco, ma prima un bel brano per riscaldarci ben bene. E noi stasera siamo qui e in sottofondo c'erano ancora gli amici di un'altra puntata e speriamo che riusciamo presto a risolvere questo problema. Comunque abbiamo un piccolo problemino tecnico con delle presenze fantasma che stanno cercando di rovinarci il nostro rientro qui a colori dell'anima. Esatto, ma non ci facciamo abbattere. No, certo che no. Bentornati comunque su 101.9, questa è Radio Alma, i colori dell'anima. Come sapete potete seguirci in diretta anche via internet, radioalma.eu, e anche lì potete ascoltare tutte le puntate passate via radioalma.eu/i colori dell'anima. E ci possono anche telefonare. Esatto, via lo 02-345-2656, 02-345-2656. Eh sì, e innanzitutto, guarda, io oggi mentre spulciavo tra le varie pagine di Facebook mi sono trovata una bella citazione, mi sono detta questa, la usiamo questa sera per introdurre il nostro programma. Facci sentire. I colori sono medicine per l'anima, gratuitamente fornite dalla farmacia dell'universo. Se ne consiglia l'assunzione per via visiva, emotiva e passionale un sacco di volte al giorno, soprattutto in caso di disturbi quali ombre, tristezze e malumore. Wow, profonda questa. E chi l'ha scritto? Non lo so. Ah, ecco. O mi ci tevano anche per plagio. Esatto, questo sarà allora per un'altra puntata. Invece Donatella, dicevi che la puntata si colore di giallo-rosso e ha anche parlato già di una squadra di calcio campione del mondo e campione europeo, va bene. Ti viene la proprio Spagna, difficile pronunciarla. Detto, eh? La Spagna, per quanto ha battuto l'Olanda la Spagna? In quella volta 1-0. Ecco, oh, che male. Anche l'Italia non è andato molto meglio, lo sai, nell'ultimo europeo, perciò Donatella, non scherziamo troppo. Questa puntata si prefigge molto molto combattuta. Ecco, invece non si parlerà di calcio stasera, Donatella. Eh no, infatti, perché il rosso e il giallo? Perché appunto il rosso e il giallo sono i colori di un paese al centro di un lungo, anzi lunghissimo viaggio che ha percorso un nostro caro amico che questa sera è qui a farci compagnia e a portarci nel suo mondo. Buonasera a Croce, o meglio Crocifisso. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Eh sì, siamo proprio contenti di avere la possibilità di averti qui, grazie per aver accettato. E forse è il caso di spiegare un po' a tutti coloro i quali ci ascoltano il perché di tanto entusiasmo. Ecco, sì, perché Croce non ha soltanto fatto il Cammino di Santiago. Innanzitutto, diciamo, non è soltanto per il nome, che è abbastanza unico, va detto. Appena è entrato in Reggeli ho detto: Croce, un nome, una garanzia. Spero che non te la sia presa. No, non risponde più. E Croce ha fatto il Cammino di Santiago, però non si è accontentato di fare solo, diciamo, un pezzo del cammino, o quello, diciamo, più canonico, quei 800 più o meno chilometri che molti fanno. Come forse sapete, io recentemente ho fatto un pezzo di 400 chilometri sul cammino, ma secondo me Croce ha superato i 3000 chilometri, se non sbaglio. A quanto sei arrivato, Croce? Non ho contato. Ah. Fantastico, questo rivela davvero lo spirito con il quale l'hai fatto. Non era importante raggiungere un determinato numero di chilometri, ma era importante raggiungere qualcos'altro. Eh sì, è più un cammino, cioè ogni passo che facevo era una domanda per me. Oh mamma mia, quindi con tutti questi chilometri non oso immaginare domande. Quante domande. Ecco. E qual era la domanda principale con cui sei partita? Ce n'era uno che avevi fisso in testa? E perché? Perché camminavo? Sì, perché cioè tu una mattina ti sei svegliato e hai detto: io parto per fare il cammino? No. No, una mattina, cioè mi sono un po' preparato, perché ho fatto qui un pezzettino, non so come si chiama. Un pezzettino di pellegrinaggio qui in Belgio. Bagneux. Sono andato a Bagneux. E dunque non è stato su un colpo di testa, è stato più un colpo di piede. Ecco, un bel calcio. Un bel calcio. Senza pallone. E una volta che ti hanno dato il calcio, però non ti sei più fermato. Non è che non mi sono più fermato, cercavo qualcosa, non avevo un, come hai detto tu, uno scopo da raggiungere o chilometri, era più un cammino, cercavo qualche cosa, non sapevo che, sono arrivato fino a Compostela Land. Uh-huh. E non ho trovato questa emozione, ma già mi preparava qualcosa. Quindi già diciamo che quando sei partito, in qualche modo non ti era chiaro perché tu stessi partendo, cioè non ti era chiaro, sentivi dentro di te qualcosa che ti diceva: voglio fare questa esperienza, voglio camminare, però il perché o il dire spero di trovare una risposta a qualcosa, spero di trovare un'ispirazione per il mio futuro, non era così chiaro. E alla fine del primo giorno ho incontrato uno che si chiama Gabriele. Uh-huh. E mi ha regalato una bottiglia di mezzo litro di acqua. Uh-huh. E mi ha raccontato una storia, cioè erano in un albergo e c'era sul tavolo un piano, e c'era scritto che là ci stava una busta che si doveva aprire 3 anni dopo, e dentro ci stava un segreto. E dunque hanno cercato, hanno trovato l'albero, sono salite e hanno trovato questa lettera. E in questa lettera c'era scritto... Oh, ma cioè, questo è proprio suspense. Volante, ci vorrebbe la musichetta. Niente. È perché la risposta è dentro ognuno di noi. No, la risposta è il cammino. È il cammino. Ecco. Ma appunto, cioè, il cammino, ma io mi posso immaginare che... Cioè, a me ad esempio piace camminare, mi piace l'idea di intraprendere un viaggio del genere, però appunto, cioè, da quello che ho capito, tu non sei uno sportivo per definizione, abituato a fare chilometri e chilometri, che dici parte per fare una sorta di competizione sportiva. Ah, no. E quindi, cioè, appunto, dopo già il primo giorno, arrivare la sera con i muscoli a pezzi, poi chissà dove sei arrivato, non è che avevi in un albergo con tutte le cose comode, comunque ti sarai dovuta mangiare. Il primo giorno sì. E il secondo? Anche il secondo. Dici un po', com'è, che cosa significa camminare, arrivare poi la sera in un posto dopo aver tanto camminato, quando il fisico comunque è stanco? Beh, già si sente la vera stanchezza e non un'illusione di stanchezza, cioè è proprio la stanchezza. La vera stanchezza, cioè la vera sete, la vera voglia di mangiare. E già solo questo, il fatto di essere in contatto con le cose essenziali, cioè le cose utili, non le cose superficiali, cioè bere, dormire, lavarsi. Eh sì. Ti rendi conto che... Come ci si lava in questi posti, se te lo posso chiedere? Perché molto spesso, cioè, ci sono tante ragazze... Con dell'acqua. Sì, però ecco, mi chiedo, magari, che ne so, cioè, te lo chiedo perché ultimamente ho incontrato tante ragazze che dicevano voglio partire da sola, però ho paura, un viaggio del genere, non so dove dormire, mi trovo magari a dormire in dei dormitori enormi dove devo condividere il bagno non so con quante persone. È così brutto, è così difficile come si possa pensare? Ma cioè per una ragazza sì, penso di sì. Però si può fare. Sì, si può fare, ma è ovvio che c'è una promiscuità molto, molto elevata. Sì. Però comunque nello spirito del cammino ci si adatta a tutto. No, non c'è veramente scelta. Mm-hmm. Ma quanto tempo hai impiegato, Croce, per entrare, diciamo, nel ritmo del cammino? Perché ovviamente suppongo che i primi giorni sei anche ancora un po' con il pensiero a casa, nella tua vita di tutti i giorni. Quanto tempo hai impiegato? Ma cioè io non seguivo le tappe normali. Cioè dunque non e dunque ogni volta che arrivavo in un albergue non era sempre la stessa gente che incontravo. Dunque questo ti aiuta a entrare nel cammino, perché il cammino è comunque qualcosa di singolare che si fa da solo. E dunque questo fatto di camminare da solo ti fa entrare più che il fatto di camminare. Il cammino non è questo che ti fa, è che un momento tu esci in un certo senso già dal tuo mondo abituale, sì. E poi piano piano dal mondo. Credo che capisco. Infatti, per spiegare agli ascoltatori, sul cammino ci sono dovunque queste alberghi o rifugi dove i pellegrini possono passare la notte, e ovviamente ci sono delle guide, eccetera, dei libri che ti indicano delle tappe tipo che spesso sono di più o meno 20-25 chilometri. E che una robetta così comunque se si segue un ritmo del genere ci sta che ogni sera si arriva con uno stesso gruppo di persone, mentre invece se cammini molto di meno o un po' di meno o un po' di più, ogni volta entri in un altro gruppo. E questa allora l'esperienza che hai fatto tu. Sì, perché questo ti permette quindi di camminare con persone diverse, mangiare con persone diverse. E quindi vi trovavate anche a seguire magari dei fuoripista, o come funziona? I sentieri sono sempre gli stessi o ci sono anche delle strade alternative? No, i sentieri, cioè di Santiago, dalla Spagna fino a Santiago ci stanno le famose flèches jaunes, le flecce gialle. E dunque non si può uscire. Io mi sono perso 2-3 volte, ma cioè... Non apposta. Anche perdersi è difficile nel cammino di Santiago. Però tu ci sei riuscito. Sì. Anche questo è un bel traguardo. A parte, sì. Sì. Ma poi ovviamente incontri tanta gente, cioè ogni sera tanta altra gente. Mi racconti magari qualcuno che hai conosciuto agli inizi del tuo cammino che ricordi particolarmente, perché ha detto, ha fatto qualcosa che ti è rimasto dentro? All'inizio no, alla fine del cammino di Santiago un francese che che non ho più visto, perché gli ultimi 10 chilometri, perché abbiamo fatto 50 chilometri l'ultimo giorno, e per me non era previsto. Poi l'ho incontrato e lui mi ha ouais, Santiago, aujourd'hui, oggi, mm-hmm. Santiago. E dunque mi sono lasciato convincere. E dunque lui non l'ho rivisto più. Cioè, gli ultimi 10 chilometri sono partito da solo, perché lui era veramente stanchissimo, aveva fatto 60 chilometri il giorno prima, cioè era proprio... Era massacrato. Sì, sì, completamente. E dunque gli ultimi 10 chilometri io ci ho offerto da bere e ci ho detto: a me mi fanno male i piedi e devo accelerare, perché cioè, quando mi facevano male i piedi... Era meglio da fare, sì, una marcia in più. Beh, cioè, il peso è così, cioè più vai piano, più pesi, più vai veloce, meno pesi sulle gambe. E dunque, sì, acceleravo. Bene. E non l'ho più rivisto, e sono restato, l'ho cercato, perché cioè è l'unico giorno dove sono restato 2 giorni nello stesso posto, perché sennò tutti gli altri giorni massimo, sì. E lui ti è rimasto nel cuore o nella mente, perché ti ha parlato di qualcosa in particolare, hai avuto un'affinità con lui? Perché già era un cameraman, mm-hmm. cioè anche in italiano non lo so come un dire, operatore video, un cameraman sì. Anche in italiano. E siccome io anche faccio molti video, dunque già avevamo un punto in comune. Ma quello che mi ha toccato è questo fatto che lui andava al limite dei suoi... Si spingeva fino a dove poteva. Ecco. Ma no, non so neanche se è arrivato, perché io non l'ho visto più. Cioè, no, non so se il giorno prima aveva fatto 60 chilometri e quel giorno là aveva fatto con me 45. Quindi veramente significa spingere il proprio corpo al limite. Cioè, a me un tedesco mi ha detto che normalmente la norma è non fare più di 75-80 chilometri in 2 giorni. Cioè è un... Sì. È una buona regola. E dunque lui aveva già superato in 2 giorni, no, non so che cosa aveva fatto i giorni primi. Probabilmente un bel po'. Ecco, e poi ovviamente all'arrivo a Santiago si ritrovano tante persone magari conosciute sul cammino, non so quanto tempo sei rimasto a Santiago, che ovviamente il punto d'arrivo alla tomba di San Giacomo. Lì come è stato il tuo arrivo a Santiago di Compostela? Io sono arrivato tardi, sono arrivato alle 7:30, alle 8 di sera. Uh-huh. Dunque sono arrivato davanti alla chiesa, porte chiuse. Uh-huh. Perché normalmente c'è una messa al mattino, come funziona? Sì, c'è la messa al mattino, uh-huh. e mi sa che... heure de bureau, qua. Okay. L'orario di ufficio. Di ufficio. E poi dunque io sono arrivato con questa chiesa chiusa, mm-hmm. e mi sono detto: non ho bisogno di entrare in quel luogo per pregare. E dunque ho posato la borsa e ho pregato all'ancienne, uh-huh. faccia in terra, fuori. Sicuramente è un gesto molto simbolico. Per me sì. Perché dici per te sì? Beh, perché non so se molta gente oggi prega così. Quindi, è così che si deve pregare. O è così che pregavano i primi cristiani. Eh sì. Sì. Infatti ricordiamo appunto che il pellegrinaggio è comunque una cosa che va avanti da millenni, da decenni. Ma io mi chiedevo, in tutto questo camminare, nel momento in cui sei arrivato, immagino su quelle scale, hai incominciato a pregare, che cosa hai sentito? Perché comunque ci vuole tanta motivazione, è vero che il cammino, cioè, si motiva da solo, ogni giorno trovi la forza dentro di te per camminare, per cercare qualcosa. Però mi sono sempre chiesta, nel momento in cui si arriva, come in ogni traguardo, c'è stata una sensazione di vuoto, c'è stata una sensazione di pienezza, di dire sono arrivato, o sento quello che volevo. Che cosa hai provato? Per me era c'était un entraînement, un allenamento. Quindi hai sentito che in realtà quello non era il tuo arrivo. No. Era solamente, diciamo, il riscaldamento per qualcos'altro. Il riscaldamento. E il qualcos'altro lo scopriamo dopo. Sono le 21:27 su Radio Alma 101.9. Restate con noi, I colori dell'anima, fino alle 10. Siamo in compagnia di Croce, che ci racconta del suo cammino di Santiago Plus. Oltre 3.000 chilometri. E dopo il prossimo brano sentiamo dove è andato dopo Compostela. Molto simpatico questo gruppetto che vengono da Alabama, Alabama Shakes, Hold On, che era certamente una cosa che Croce doveva fare, Hold On. E infatti sì, buonasera a tutti, siamo su I colori dell'anima, su Radio Alma, e questa sera siamo in compagnia di Croce, che ci sta raccontando, ci sta deliziando con i suoi racconti di questo lungo cammino. Quanti chilometri abbiamo detto? Croce adesso che non si ricordava più, però era oltre 3.000. Oltre 3.000 chilometri, siamo già arrivati in realtà volevo dire siamo già arrivati nel racconto a metà del viaggio, cioè a Compostela, ma in realtà Croce ci ha detto che questi primi chilometri non erano altro che un riscaldamento, perché il vero viaggio è incominciato proprio a Compostela. Dove sei andato? Cosa si è acceso in te? Perché tu quando sei partito pensavi di arrivare... Ah no, io pensavo di arrivare a vicino Compostela, casa, e tornare. E poi sì, a tornare a casa. E invece? Invece no, mi sono detto vado a Finisterre, vediamo, può darsi che... Perché anche là ho incontrato uno che mi ha detto che lui aveva risentito questa emozione a Finisterre. E infatti ricordiamo che Finisterre, o in italiano è anche detto Fisterra, che sarebbe proprio la fine della terra, si trova a circa 90 km da Santiago de Compostela sulla costa, giusto? Sì, Fisterra, anche in galiziano viene chiamato così. E diciamo che quel luogo era creduto un tempo l'avamposto dei luoghi conosciuti, quindi da Finis Terrarum, detta da me con tutte queste R, lo ripeto così mi esercito, Finis Terrarum, confine delle terre, il cui tracciato era indicato quindi in cielo dalla Via Lattea. E nel molto rilevante anche nel Medioevo, i pellegrini, per portare a casa un po' di una prova di essere stato a Santiago, si continuava fino al mare, insomma dopo un lungo viaggio, era un pezzettino ovviamente, per prendere delle conchiglie, le conchiglie di San Giacomo, San Jacques, San Jacques, le cosiddette anche capasante, le capasante o esatto, capesante, capesante non lo so. E tu Croce ne hai raccolto di capesante o di conchiglie a Finisterre? No. Perché no. Tu eri preso da altro, perché lì hai capito che bisognava continuare a camminare. Sì, cioè là è stato comunque un punto di esitazione. E mi sono detto, facciamo comunque una tappa, così non perdo tempo a non far niente, esitando... Ci ho detto facciamo comunque un passo, può darsi che facendo il passo avrò la risposta della mia esitazione o no. Ed è arrivata questa risposta. Eh sì. Perché dopo dove sei andato? E dopo sono andato, là è iniziato il cammino alla rovescia, perché io andavo a controsenso. Dunque la gente veniva da Fatma, saliva... Verso nord, verso... E dunque Santiago. Erano le famose flecce blu, e io prendevo le flecce blu a controsenso. Non ti sei beccato nessuna multa? ero j'étais en sens interdit, entre guillemets. Mais la police ne t'a pas arrêté. Non. No, perché c'erano dei motivi ben più profondi. Io lo sai che scherzo, ma che cosa ha significato per te camminare? Cioè, se hai detto che hai incominciato a camminare da Fister verso Fatima. Sì, no, no, là, per me è iniziato un cammino interiore. No, là ero solo, mm-hmm. Cioè non c'avevo più scelta. Mm-hmm. Dunque, sì, ho incontrato tutti i pellegrini, tutti li ho incontrati, tutti quelli che salivano mi hanno visto. Invece di vedere la nuca, poi li vedevi in faccia. Sì, in faccia. E al posto di dire hola, dicevo olé. Si cambia, ci si adatta. Ma ero solo e là ho iniziato più un cammino interno, più con le mie paure, le mie chimere, i miei demoni, anche le mie paure, i miei. Là è più un cammino interno. Diciamo che è incominciato a uscire. E avevi già capito a quel punto un po' meglio, diciamo, perché eri partito? Cioè, avevi ancora tante domande o stavi già trovando anche delle risposte? La risposta ritorna a quella lettera. È il fatto di che non ci sono risposte. Era proprio il fatto di farle uscire queste cose, di farle uscire questi demoni. È più una purificazione. Purificazione, ecco. Cioè, quando uno è da solo comincia a pensare. E sicuramente veramente. Anche molto simbolico. Non è più nella riflessione, non c'è più un altro dove posso progettare i miei sei tu, o è l'altro, non sei da solo, dunque tutto quello che pensi sei tu. E dunque non puoi più dire è lei o è lui, no. Solo tu l'artefice della tua giornata. Sì, solo tu. Sei solo tu. Soprattutto poi ovviamente quando a un certo punto esci fuori dal mondo del cammino, perché a un certo punto è vero che andavi controsenso, ma a un certo punto andavi proprio lontano dalle vie di Saint-Jacques. Là ho fatto un video perché ho dormito molte volte dai bomberos. Che cosa sono? I pompieri. Uh-huh. Ah. Sì, perché cioè io ero pellegrino, dunque per me era ovvio di poter andare a dormire da una parte. Allora se la chiesa era chiusa, io andavo da un'altra chiesa, perché per me la chiesa è un luogo dove puoi almeno dormire, certo, mangiare almeno un giorno e poi ripartire per il tuo cammino. Cioè dovrebbero essere così per me le chiese, degli alberghi. Uh-huh. Dove non vai a ripetere delle cose. Sì, mangiando sì, si può parlare, si può fare l'Eucaristia, ma più, cioè là io dai Bomberis ho ritrovato una chiesa. Ah. E là c'era una pièce de théâtre, una scena di. C'era un teatro nella sala di sport e là mi sono filmato che quello che faccio quando arrivo, mi spoglio, faccio la doccia, mi ho filmato tutto questo sulla scena e poi mi sono fermato e ho detto alla telecamera: adesso ho finito di giocare al turista pellegrino, da ora in poi comincio il mio cammino da pellegrino, perché non c'avevo più albergo, non c'erano più flecce e dunque avevo fatto uno dei tre passi che portano al pellegrino, cioè il vero pellegrino, e là iniziavo. Eri con te. Ero solo con me e non sapevo, cioè credere, dire che uno crede è facile, ma se uno non si trova nella posizione dove il solo la sola cosa che ti resta è credere che domani troverai un posto dove dormire e mangiare. E io avevo dinero, come si dice in spagnolo, in sacchetta. Ma se non c'hai più dinero in sacchetta, là sei il pellegrino. In quel momento là o credi o non credi. E qual è la sensazione, diciamo, più bella, più forte che ti è rimasta di quel momento, quando ti sei reso conto che eri diventato, diciamo, pellegrino ad oltranza, cioè sei andato oltre il solito pellegrino del XXI secolo? Come ti sentivi? Perso. Sì. Tanta paura. Sì, perso, ma ogni passo rispondeva a una domanda che non mi facevo più. Quindi in qualche modo c'era più domanda e non c'era più risposta. Ogni passo succedeva quello che doveva succedere, e quando non ti aspetti più a qualcosa inizia a venire l'insospettabile, e solo là puoi vedere delle cose che ti possono far capire che non, ci sono cose che non si capiscono, ma le devi fare per non capirle e per capire che è così. Se come sa. Direi che queste parole sono fantastiche, fanno venire veramente la voglia di partire, di mettersi alla prova con sé, e sicuramente ci fanno provare tanta stima per te, che comunque ti sei messo in gioco. E come ci dici tu, insomma, non è stata una cosa molto difficile, perché accettare di diventare pellegrino e accettare di prendere la vita, in questo caso di prendere veramente la giornata e tutto quello che veniva così com'era, significa essere un po' disposto a tutto. No, perché ritorniamo alla famosa carta blu. Io c'avevo i soldi. Okay. Comunque c'avevo i soldi, avevo un Jean Filet. Avevi comunque una sorta di jolly, di carta sicurezza. Se mi va male, se, comunque, e il comunque non è niente. Vabbè, in questo forse però sei anche molto severo, perché c'è il principio di realtà, il principio di realtà. Perché tu con te stesso sapevi che c'era comunque qualcosa che ti stava facilitando. Ma è ovvio, è ovvio. Il tratto, quando ho fatto il tratto Lisboa e ho raggiunto la Plata, dunque era la prima volta che ero fuori cammino. Là ho fatto, mi sa, più o meno, non so, 500, 700, neanche più conti chilometri. Vai da un posto a un altro, dalla Plata Al Jazeera, Ceuta, Nador, Gerusalemme. Non c'è più. Non la pensi più in termini di tappe o di chilometri, cammini fino al. Perché sai che non sono i chilometri che ti danno le risposte. Sì. E tutto quello che succede, il tuo cammino lo puoi fare in 2 chilometri, e per questo devi fare, può darsi che 100 o 200 o 3000, o cioè tu dici se è ammirevole. No, io ho dovuto fare 3000 chilometri per può darsi arrivare allo stesso punto di te, che ne hai fatto 400, perché non sono i chilometri. E il cammino, infatti, questo credo sia un buon momento forse di introdurre il prossimo brano, prima che andiamo a scoprire quello che ti è successo dopo la Plata. Infatti c'è questo brano di un cantante spagnolo, Juan Manuel Serrat, che riprende una poesia molto famosa di Antonio Machado, che contiene la frase che molti conoscono e che si applica al cammino, che dice camminante non hai cammino, se hai il cammino all'andar. E in pratica quello che ci hai detto tu, cioè non c'è un percorso, non c'è una strada, ma la strada si fa facendo, si fa camminando. Ascoltiamo insieme questo brano, poi torniamo qui ai Colori dell'Anima con Croce e Donatella per continuare questo discorso insieme. Eccoci di nuovo in studio con Donatella, Croce e sottoscritto Roland, I Colori dell'Anima. Eh sì, siamo in compagnia di Croce che ci sta portando su questo lungo cammino. È partito appunto dalla Francia per arrivare a Compostela, si è inoltrato a Compostela, ha incominciato il vero cammino, un cammino interiore, perché infatti i chilometri precedenti erano stati solo di riscaldamento e tante cose sono successe invece proprio a partire da Santiago, dove appunto è proseguito per Finisterre, sei salito su a Fatima e poi ti sei allungato verso le coste del Marocco, giusto? Sì. Raccontaci un po' com'è andata la cosa. Camminando, cioè il fatto di non avere le risposte fa che continui a camminare. E dunque, non sapevo, ma sapevo che... sì, è un po', sei più narcisico, è un po' dell'ego. Mm-hmm. Sapevo che nessuno era andato a Gerusalemme passando dall'Africa del Nord. Mm-hmm. E sapevo anche che in Africa è un paese dove ci sta molta guerra. Sì. E mi è venuto questa intesa, mi ha detto sarebbe magnifico che dei pellegrini passano là dove ci sta la guerra, cioè è un gesto molto simbolico. Sì, cioè è come aprire una strada verso Gerusalemme, ma là dove ci sta conflitto, dove c'è sempre stato conflitto. Eh sì. Perché cioè il mondo è un po' diviso in due, ci sta l'Africa del Nord, ci sta l'Europa e ci stanno e loro ci guardano, noi li guardiamo e ci sta. Ma io sono stato là, ho camminato in Marocco e come dire Jimmy, un amico mio, che du bonheur. Davvero? Sì. Cioè come ci sei arrivato in Marocco tu? Sono arrivato dunque dopo ho ripreso la plata dalla uh-huh. plata al Algeciras e là ho preso la nave uh-huh. fino a Ceuta. Dove sei sbarcato quindi sulla costa marocchina? Sì. Ceuta è un paese spagnolo che sta in Marocco. In Nord Africa, sì. E lì è cambiato il paesaggio. Sì. E quindi anche nuovi demoni e nuove paure. No, perché in Marocco non c'è... le tentazioni non ci stanno. Non sono uguali. Andiamo terra a terra, le donne non ci stanno, i supermercati, l'alcol non ci sta. Là se già trovi una piccola boutique dove puoi comprare un po' di pane, sì, ci sta sempre Coca-Cola, ma cioè. E dunque non ci sta più le tentazioni materiali primarie. Non c'è questo demone del consumismo tutto intorno che ti chiama e ti sollecita di continuo. Sì, ma voilà, là è diverso, là è più un cammino di confronto, cioè di parlare con un altro che crede. Mm-hmm. Che però magari ha un credo diverso. Non penso che è diverso, sono le parole che cambiano, sono i nomi che dividono, ma non penso, no. Sì, ci sta una paura dell'altro, ma io ho visto gente fermarsi con la macchina, darmi da bere, darmi del pane. Voilà. Sì, no, non ti fanno entrare in casa, sì, questo è vero. Ma se no mi hanno ospitato. Hai sentito comunque solidarietà intorno. Sì. Quindi sì, hanno il senso dell'ospitalità, ma non c'hanno i luoghi per ospitarti. Mm-hmm. Questa è una cosa molto interessante. E da lì, dal Marocco, il viaggio è proseguito con una meta ben precisa. No, la mi sono detto all'usi non mettiamoci neanche limiti mentali. E dunque ho detto vado a Gerusalemme, ma non ero preparato. Cioè è uno sbaglio. E voilà, e dunque non eri preparato, intendi, con le cose che avevi con te. Non è il fatto che non ero preparato, non ci ho avuto il coraggio di andare oltre i limiti che la società ci mette, che si chiamano frontiera, che si chiamano visa, che si chiamano passaporto. Ma ci stanno africani là che passano, che si fanno scassare, come si dice in siciliane, l'ossa. Anche gente che muore là, certo, nelle frontiere. Non ci mettono molto a attivarti un bel pallino addosso. E dunque, ma non è là, non è là. Non possono arrivare più, più sopra, ma non so se sopra fanno... Non è solo là, non penso. Là si parla anche, in altri paesi non si parla, o si scherza. Cioè, ma non penso, se mi arrestano a me, che sono italiano, col passaporto non mi fanno niente. Sì, mi mettono 3 o 4, ma non l'ho fatto. Sono arrivato alla frontiera, mi hanno fermato, visa. Parliamo di quale frontiera? La frontiera terrestre, già Marocco-Algeria, è chiusa. Dunque non puoi attraversarla a piedi. Dunque ho dovuto andare a Melilla. Melilla sono andato in Spagna, poi della Spagna di nuovo ho provato ad andare a Nador. Anche là mi fanno passare la dogana, mi vendono un biglietto e non mi chiedono se c'ho il visa. Ho dovuto arrivare fino in Algeria per sapere che non potevo entrare. Beh, voilà, io mi sono detto che se tu vai in un posto, il tuo cammino ti porta a diventare quello che vuoi diventare. Se vuoi diventare un pellegrino, tu diventi un sans papier, senza carta, e così le passi le frontiere. E questa è la verità. E cioè non è solo la verità. La verità è che non ho avuto il coraggio di prendere il mio passaporto, di bruciarlo e di continuare a camminare. Perché è solo questo il pellegrino. E con che sensazione, visto che siamo quasi in chiusura, con che sensazione ti ha lasciato il fatto di aver detto che qui ho trovato un limite, indietro? No, non è un limite. Posso andare all'ambasciata, al consolato e mentire per entrare in Algeria, perché posso entrare, ma devo avere un albergo e non mi devo muovere dall'albergo, cioè non posso fare il pellegrinaggio. Non posso neanche entrare in Libia, perché no, sì, dovrebbe anche là trovare una famiglia che mi invita e mentire che resto là un mese e... Invece poi fa vesti bene. Ma no, puoi mentire con gli uomini, ma non puoi mentire quando fai un pellegrinaggio, perché mi mento a me stesso. Certo, certo. Allora, abbiamo 2 minuti preziosi ancora a disposizione, e perché qui, diciamo, il nostro viaggio insieme di quest'ora sta per finire, però per fortuna, perché non abbiamo ancora scoperto tutto del tuo viaggio immenso, direi, però abbiamo saputo da te che c'è modo in linea, su internet, di entrare in contatto e di sapere più del tuo viaggio. Come, raccontaci un po'. Mentre nel cammino la gente ha un diario, e dunque scrive, racconta un po' e io sono partito con la mia telecamera e dunque, siccome non avevo era per me il mezzo più che utilizzo di più è il video per parlare, per, e dunque mi sono detto utilizzo la mia camera come un journal de bord, un sì, giornale intimo, e dunque camminando o la sera facevo 5 minuti o 3 minuti più o meno, un giorno sì, un giorno no, raccontavo quello che mi è successo, quello che mi toccava. E fantastico, cioè. E dove possiamo vedere questi video? E non scusate, dove li dirigiamo? Attualmente sto, perché ho 13 cassette e dunque faccio dei video più o meno di 10 minuti per ogni cassetta, e li metto su YouTube. Quindi diciamo che digitando su YouTube Terence Lacroix si possono vedere i video. Possiamo vedere tutto il cammino di Kvoce e possiamo vivere le sue emozioni, le sue sfide, le sue paure e...